Salva Danaio. Bentrovati da Valentina Furlanetto, questa nuova puntata di Salvadanaio. Oggi parliamo, visto che sono stati diffusi ieri alcuni dati dell'Istat, ne avrete sentito, ne avrete avuto notizie anche nel nostro radiogiornale, oltre che sui giornali di oggi, dati dell'Istat sul mercato immobiliare che riguardano sia le compravendite che i mutui. Un crollo, insomma, per i mutui per la casa, crollo che l'Istat certifica per quanto riguarda il secondo trimestre. Per quanto riguarda le compravendite, un calo del 23,7% su base annua. Per quanto riguarda invece i mutui, sempre nel secondo trimestre 2012, i finanziamenti, le obbligazioni con costruzione, insomma tutti questo genere di finanziamenti, sono scesi del 41,2%. Si tratta del secondo trimestre 2012, quindi, come dicevamo anche qui in studio, dati tutto sommato anche un po' vecchi, però vengono confermati ad esempio anche dai dati presentati ieri dall'osservatorio Assofim Crif Prometeia sui primi 9 mesi del 2012, che vedono l'erogazione di mutui dimezzarsi rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, meno 49,6%, quindi vanno tutti purtroppo nella stessa direzione. E voi volete comprare casa, avete difficoltà, avete avuto difficoltà a ottenere un mutuo, avete rinunciato a chiederlo, volete vendere casa e perché non, magari non lo fate in questo momento? Telefonateci all'800 24 00 24, oppure potete scriverci al 349 238 6666. Prima di dare un'occhiata a cosa succede in borsa, come sempre saluto i miei ospiti. Paola Dezza, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Andrea Polo, direttore della comunicazione di facile.it e immobiliare.it, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo in collegamento telefonico Enrico Lodi, direttore generale Credit Bureau Service di CRIF, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie per essere con noi a tutti e tre, e cercheremo insieme con la vostra collaborazione di rispondere alle domande degli ascoltatori. Abbiamo pensato di fare appunto questa puntata di attualità proprio perché c'è molta attenzione, insomma, per il mercato, per quello che succederà anche dal punto di vista ad esempio dei prezzi. Tra poco ne parleremo più diffusamente, ma diamo uno sguardo a quello che succede sui mercati. Allora, mercati nervosi questa mattina dopo la decisione della Federal Reserve di fare acquisti per 45 miliardi di dollari al mese di titoli del tesoro. I mercati sono appunto negativi, Francoforte meno 0,32, la peggiore in questo momento, intorno alla parità Parigi meno 0,01, mentre Londra scende dello 0,14%. È positiva invece Piazza Affari dopo l'asta dei bot, ne abbiamo parlato poco fa durante il collegamento nel nostro radiogiornale. Il FTSE MIB guadagna lo 0,24, FTSE Italy Share più 0,26. C'è stata un'asta anche in Spagna, tra l'altro, con una buona raccolta, con una buona vendita delle emissione obbligazionaria 3, 5 e 20, 28 anni con tassi in calo per le prime due scadenze. Di quella italiana ne abbiamo già parlato. Diamo uno sguardo ai temi di borsa. La Popolare di Milano brilla quest'oggi più 5,19%, spinta da ipotesi di stampa di trasformazione in società per azioni. Segue la Popolare dell'Emilia Romagna più 2,77% e Finmeccanica più 1,97% in questo istante. Bene anche Autogrill, che prosegue il rialzo che le ha permesso di recuperare oltre il 7% in 4 sedute, supportato oggi dalle valutazioni di Credit Suisse, che ha alzato le stime sui conti e il prezzo obiettivo sulle azioni. Bene anche i Italcementi, che ieri a borsa chiusa ha annunciato un piano di tagli di costi per 40 milioni l'anno e guadagna più dell'1%. Luxottica invece la peggiore del listino, meno 0,71, seguita da Mediolanum, ma meno 0,66. Lo spread è intorno ai 330 punti, è un po' risalito rispetto ai 320 che avevamo visto stamattina, mentre l'euro sul dollaro è a 1,30,58. E chiudiamo così i nostri dati di borsa, veniamo al mercato del mattone e per capire qualcosa di più sentiamo la nostra scheda. Gli italiani, si sa, hanno una passione particolare per il mattone, da sempre preferito ad altri investimenti e considerato più sicuro. Comprare casa però è sempre più difficile. Periodicamente ci troviamo di fronte alla pubblicazione di dati sempre più scoraggianti. A fine novembre l'Agenzia del Territorio aveva confermato questa tendenza, che sembra non arrestarsi e che vede il mercato immobiliare tornare ai livelli di 30 anni fa. Tra luglio e settembre 2012, rispetto allo stesso periodo del 2011, l'agenzia ha registrato un calo delle compravendite di immobili pari al 25,8%, con un tonfo del 26,8% nel solo settore residenziale. Secondo le stime di Nomisma, l'anno in corso dovrebbe chiudersi con un numero di compravendite pari a 466.644 unità, numeri ben lontani dalle circa 600.000 compravendite del 2011 e ancora più lontani dal massimo di 845.000 registrato nel 2006. Un'ulteriore conferma è arrivata ieri da dati Istat riferiti alla statistica notarile. In questo caso, relativamente al secondo trimestre, le convenzioni di compravendite di unità immobiliari risultano in calo del 23,7% su base annua e, in particolare, nel secondo trimestre 2012, i mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare registrano una caduta annua del 41,2%. Al di là delle diverse percentuali registrate, sempre preoccupanti, il minimo comune denominatore sembra essere quindi sempre il medesimo. Comprare casa è sempre più difficile, perché è sempre più difficile ottenere un mutuo. Una tendenza che non risparmia nessun angolo della penisola, anche se le variazioni tendenziali osservate nel nord-ovest, meno 38,6%, e al centro, meno 36%, restano al di sotto della media nazionale, portata verso il basso dal meno 44,8% del sud e dal meno 58,3% delle isole, con un calo che sembra più marcato nei piccoli centri e leggermente più contenuto nelle grandi città. Insomma, avete sentito, questi sono i dati, sono diversi appunto anche da regione a regione, con un picco, dei mutui, un picco dei cali nelle isole, in particolare in Sicilia vedo meno 63%, però insomma i dati sono abbastanza sconfortanti anche ad esempio nel ricco nord-est, in Veneto meno 40,9%, Lombardia meno 37%, un po' sotto la media dell'Italia, ma insomma non va tanto bene un po' ovunque. Paola, sono dati che tu ti aspettavi innanzitutto? Sì, perché sono i dati che fotografano effettivamente la situazione del mercato immobiliare. Il mercato immobiliare sta soffrendo per una serie di motivi che vanno dalla crisi economica generale, che quindi porta incertezza, insicurezza, alla crescita della disoccupazione, chiaramente influisce sulle scelte di acquistare una abitazione, ma anche alla scelta delle banche di ridurre il credito. La mancanza di liquidità chiaramente fa crollare le compravendite, perché la maggioranza delle vendite si realizza tramite mutuo. E questo è paradossabile, tra l'altro, in un momento in cui l'Euribor insomma è prossimo allo zero, quindi si diceva l'altro crollo è stato nel 2008, infatti questi dati non si vedevano andati così bassi, con un calo così profondo, se non risalendo al 2008, ma allora era al 5%, quindi una situazione molto diversa, con cause appunto che tu sottolineavi, anche di difficoltà reale delle famiglie, ad esempio, di far fronte alle spese. Andrea Polo, dal vostro punto di vista, buttiamo un po' di carne al fuoco, parlavamo appunto di altri dati che invece vanno bene, come paradossalmente la nuda proprietà, per una questione anche fiscale, mi pare di capire, e poi invece il lusso, gli appartamenti e le case di lusso, è così? Sì, sono i due estremi che continuano a crescere. Il lusso nell'ultimo anno è cresciuto del 2%, un dato decisamente in controtendenza, ma va chiaramente interpretato. Chi compra un immobile di lusso non ha bisogno di un mutuo, questa è la nuda realtà. La nuda proprietà invece sta diventando una forma di investimento da un lato, per cui in qualche maniera mettere al riparo il proprio denaro su un qualcosa che costa meno e di cui magari avremo necessità fra 15-20 anni, diventa l'investimento classico per i figli magari oggi piccoli. Dall'altro diventa invece un modo per chi la vive di avere una rendita in un caso, oppure di anticipare in qualche maniera una sorta di eredità ai figli proprio per aiutarli a comprare un'altra altro immobile, quindi dare loro una prima base. Tra l'altro, con l'altra metà del cielo di cui mi occupo io, quindi come facile, un altro dato che è emerso importante è che ormai il 27% dei mutui che sono concessi in Italia vengono concessi solo e soltanto in virtù della presenza di un garante. Il garante è, nella stragrande maggioranza dei casi, il genitore, che magari con la propria pensione oppure con una rendita causata dalla vendita della nuda proprietà può essere un soggetto in qualche maniera che dà maggiore garanzia all'istituto di credito e permette la concessione del mutuo. Sì, ci sono storie riportate anche sui giornali, sui quotidiani di oggi, di persone che magari una coppia che ha un reddito di 40.000 euro e nonostante questo la solidità di due stipendi a tempo indeterminato si vede negare un mutuo, oppure adulti che devono andare col genitore anziano in banca e nonostante questo magari non ottengono il mutuo. Le banche sono diventate un po' choosy, forse. La realtà dei fatti è che oggi, senza dubbio, per ottenere un mutuo bisogna mettere in conto di avere a disposizione almeno il 50% del capitale richiesto, tant'è vero che anche la forchetta fra il richiesto ed erogato ormai si è allargata, si parla di oltre 10 punti percentuali, si arriva quasi ad 11, quindi questo è importante. Leggermente meglio forse il mercato della prima casa, perché in qualche maniera questo si sta muovendo. Enrico Lodi, allora, noi abbiamo iniziato proprio parlando di questi dati dell'osservatorio Assofin CRIF Prometeia, che sono negativi per quanto riguarda i 9 primi mesi dell'anno. Qual è la previsione per la chiusura peggiore di quella addirittura dei primi 9, mi immagino? Purtroppo sì, il punto è che l'andamento dell'erogato si sposa con un andamento della domanda che è analogo. Ed è questo, secondo me, il tema che non getta una buona luce per il 2013. Mi spiego. Se andiamo a guardare soltanto il dato della domanda di mutui che CRIF intercetta attraverso Eurisk, il suo sistema di informazioni creditizie, noi abbiamo che gennaio-novembre 2012 presenta un calo complessivo della domanda di mutui del 43%. Teniamo conto che questo è un calo che si è generato con questi numeri stratosferici a partire dal secondo semestre del 2011. Prima, voglio dire, anche nel primo periodo di crisi tra il 2008 e il 2010, la domanda era tendenzialmente stabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si è messo in moto un meccanismo perverso di aspettative negative. Non penso di poter magari vendere la casa più piccola in cui abito per prenderne una nuova, perché il mercato è bloccato, e quindi mi autocensuro a priori nel andare a domandare un mutuo, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che appunto da circa 15 mesi a questa parte la domanda, quindi non il tasso di rifiuto delle banche, ma la domanda è calata del 40%. Certo, beh sì, probabilmente è così. Andrea Polo, voleva aggiungere qualcosa? Sì, quello che dice Lodi è sacrosanto e tra l'altro si parla con altri due dati, uno dei quali ha già detto lei, cioè ad esempio in Sicilia una diminuzione così ampia. Questo deriva anche da come la casa è diversa in Italia dal nord al sud, per cui se è vero che senza dubbio questo è legato al reddito, è anche vero che in meridione le case sono più grandi, per cui proprio dal periodo in cui parlava Lodi dell'inizio del calo della domanda del mutuo si è invece ricorso tanto al prestito per la ristrutturazione delle case, per cui quella che era un po' la casa genitoriale più ampia, con un prestito che è più facile da ottenere rispetto ad un mutuo chiaramente, viene ristrutturata, divisa in due unità, da una parte diventa la casa, diciamo, dei genitori, dall'altra diventa la casa dei figli. Quindi queste sono senza dubbio tante realtà, però anche dall'indice della fiducia immobiliare.it dell'ultimo trimestre la posizione italiana è quella dell'attendismo, per cui sto un po' lì sulla riva del fiume a capire cosa succede, perché prima o poi forse i prezzi scenderanno, questo è tutto. Sì, in effetti è interessante la cartina geografica, in realtà solo il centro è sotto la media. Paola, volevi dire qualcosa? Paola Dezza. Sì, volevo dire che poi una grossa fetta del mercato è fatta dall'acquisto per sostituzione, quindi da chi cambia casa perché sono arrivati dei figli, quindi sceglie di spostarsi in una casa più grande. Questa domanda in questo momento momento è completamente ferma, quasi completamente ferma, perché chiaramente è un acquisto che si rimanda, quello di una casa più grande. Oltretutto, se il mercato è ingessato in città come Milano e Roma, dove le dinamiche anche di persone che arrivano per lavoro, eccetera, sono molto più fluide, diciamo, rispetto alla provincia, possiamo immaginare come sia difficile vendere un'abitazione per acquistarne un'altra in un piccolo paese, in una piccola città di provincia. Molti lettori, anche ascoltatori, una trasmissione che avevamo fatto sempre sull'immobiliare, sì, hanno chiamato per dire: ho comprato la casa nuova ed è 2 anni che non riesco a vendere. Sì, è vero, quella è vero vecchia, che ci avevano chiamato per testimoniare questo, la difficoltà proprio anche a vendere, perché poi anche questo, la vendita tempi difficile. Medio, sono passati dai 3 mesi di qualche anno fa a mediamente, ripeto, mediamente oltre i 7 mesi di oggi. Questa è una cosa importante, tant'è vero che cresce molto invece il mercato dell'affitto, il mercato soprattutto in città come Milano delle condivisioni di affitto anche ben al di là dell'età universitaria, ecco, questo è purtroppo. Ecco, leggevo anche sul Sole 24 Ore di oggi il fatto che molte banche stanno già proponendo a chi è in difficoltà il riacquisto dell'abitazione, in difficoltà col mutuo in questo caso, e la successiva concessione in affitto con diritto di riscatto. Quindi insomma le banche si stanno muovendo anche da questo punto di vista con formule anche un po' diversificate. Anche perché consideriamo tra l'altro che per la banca avere l'immobile non è una grande fortuna, perché comunque è un peso, per cui la banca tende a liberarsene il prima possibile, prova ne sia l'aumento a dismisura delle dismissioni in quest'ultimo periodo. Torniamo a parlarne tra pochissimo, chiedo anche agli ascoltatori che sono già in linea all'800 24 00 24 di avere un attimo di pazienza, subito dopo la pausa daremo la voce a voi. Salva Danaio. Bentornati a Salva Danaio, stiamo parlando oggi di mercato immobiliare con i dati del secondo trimestre dell'Istat sulla casa e le compravendite che indicano insomma un mercato in discesa. Darei la linea subito agli ascoltatori come promesso. Giuseppe dalla provincia di Lucca, buongiorno, grazie per l'attesa. Buongiorno. Deve abbassare la radio Giuseppe, perché altrimenti non la sentiamo bene. Ci sente? No, non ci sente. Dobbiamo salutarla, richiami, ma abbassi la radio. Fernando, dalla provincia di Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, in merito al problema dei mutui che non concessi, o quantomeno che hanno grossa difficoltà a essere concessi, io ho una casa che ho già messo in vendita da 1 anno e mezzo che non riesco a vendere, anche se molti compratori si sono fatti avanti. Poi c'è sempre il problema delle banche che non concedano mutui. Devo dire, tra l'altro, che questa casa io l'avevo messa 1 anno e mezzo fa in vendita a 400.000 euro, perché è una casa di 10 piani, posta vicino a Grosseto, in una località molto panoramica. Di 10 piani? 10 vani, scusi. Ah, sì. 10 vani. Ho capito male, forse. Va comunque bene. Piani ce n'ha parecchi, perché erano... Va bene, comunque case... 400.000 euro ha dovuto scendere? Sì, ora io l'avevo messa a 250 ultimamente, ma sono impossibilitato, cioè non riesco a trovare a venderla. Quindi perché... lei da 1 anno e mezzo è sceso nella sua richiesta da 400 a 250. Ah, e a 250, esatto. E nonostante questo non trova, ma perché ha trovato delle persone interessate alle quali non veniva concesso il mutuo? Sì, esatto. Ho capito. Esatto. Va bene. Soprattutto per questo. Certo. Ecco. Quindi, e come ci segnalava dalla regia con cui ha parlato prima, lei deve anche pagare l'IMU su questa che è la seconda casa, giusto? Voglio dire, perché poi la casa ovviamente si sta deteriorando, voglio dire, avrebbe bisogno di qualche piccolo intervento, ma si parla di imbiancature. Certo, non lo dica Fernando, se no non la comprano più. Va bene, grazie, le facciamo rispondere da Enrico Lodi, grazie Fernando. La sentito? Il signor Fernando mi sembra purtroppo abbastanza generalizzata. Ancora una volta qua il tema è quello legato al io che voglio, sono interessato a quell'immobile, siccome comunque il loan to value, cioè la quota di finanziamento che mediamente le banche concedono è attorno al 60% del valore dell'immobile che devo comprare, e non è calato peraltro in questi anni, è abbastanza stabile, io devo avere almeno il restante 40% in disponibilità, e normalmente come lo genero l'altro 40%? Magari vendendo l'immobile di cui sono attualmente proprietario. Torniamo al punto, se non riesco a vendere l'immobile di cui sono proprietario oggi, non riesco a generare quella liquidità che mi serve per chiudere la quota parte non finanziata dal mutuo, e quindi non perfeziono l'operazione. Tra l'altro l'ascoltatore diceva appunto che aveva quasi dimezzato il prezzo iniziale con il quale era partito, quindi prezzo concorrenziale, almeno così sulla carta, poi bisogna vedere l'immobile e tante cose. Anche questa è una situazione diffusa, quella di abbassare così tanto il prezzo? Lodi. Per quanto serviamo noi, questo andamento esiste, magari non in maniera così drastica come la situazione che ha descritto il signor Fernando, però il trend è quello, oggettivamente. Però torniamo al punto, siccome è generalizzato, si relativizza tutto, è questo il tema. Certo, allora Luca dalla provincia di Siena, buongiorno. Sì, buongiorno. Qual è il suo caso invece? Il mio caso invece è che io vorrei acquistare una casa, avevo iniziato una trattativa circa un anno fa, il prezzo era sui 190.000 euro, e dopodiché non mi sono più interessato, dopo volevo di nuovo comprarla, e sono andata in una trattativa e il costruttore mi dice che meno di 150 non me la può vendere, se no è soggetto a verifiche fiscali e quindi a pagamento di tasse su de minimi che vengono loro imposti. Sì, sì, in effetti che annuiscono anche gli ospiti in studio. E quindi lui non vuole scendere più di una certa cifra per questo motivo qua. Ma lei vorrebbe scendere sotto i 150, ho capito. Sì. Andrea, Polo. No, è vero, è chiaro che comunque i prezzi dell'immobile hanno delle medie, è chiaro che soprattutto i costruttori che sono fortemente esposti con le banche, che non hanno una casa da affittare in nero, come purtroppo malcostume spesso insegna, hanno chiaramente dei margini entro cui anche la scontistica può o non può muoversi. Entrambe le telefonate, tanto quella di Luca quanto di Fernando, tra l'altro confermano i dati anche emersi dall'Istat. La provincia è senza dubbio in maggiore difficoltà rispetto alla grande città, dove il mercato è più fluido. Va anche detto riguardo al signor Fernando e alla provincia di Grosseto che se è difficile ottenere un mutuo per una prima casa, la sua, che probabilmente si trova nelle zone dell'Argentario, parlava della provincia di Grosseto, di una casa al mare, comunque sarebbe un mutuo a seconda casa, per cui ovviamente diventa ancora più difficile ottenere quel genere di mutuo. Se capisco bene dalla regia, mi fate un accenno. Giuseppe dalla provincia di Lucca è di nuovo con noi, l'ascoltatore che prima non riuscivamo ad ascoltare. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, sì, ci dica. Buongiorno. Dicevo, come avevo detto, io la radio l'ho bassa. Sì, va bene adesso, dica pure. Il discorso dei mutui che sono calati, non li danno, le case sono calate, è vero, ed è vero. Io volevo rinegoziare il mutuo, io ho un tasso fisso, volevo passare perché ho un po' di problemi economici, volevo cercarlo di rinegoziare, però mi danno un tasso sotto l'1% con uno spread del 3,5-4, ma dove vado? Ma mi tengo il mio naturalmente. Ho capito. Non si può fare così. Quindi è questo inutile che abbassano i prezzi, però le banche alzano gli spread. Come alzano poi i tassi, anche dell'1%, ci ritroviamo alla fine dei conti a pagare un tasso del 6-7. Quindi lei si è tenuto il tasso fisso, giustamente. Sì. Grazie Giuseppe. Paola, è un caso diverso, una rinegoziazione, però insomma sottolinea il fatto dei tassi, quindi, o anche della difficoltà insomma a trovare, sarebbe sempre il caso magari di vedere più banche, in questo caso questo è una rinegoziazione. Sicuramente vedere le offerte di più banche, anche se poi le offerte delle banche sì, si discostano un pochino l'una dall'altra, ma forse in questo momento lo spread che poi applicano è sempre è simile. Tra il 3 e il 4%, quindi nessuno poi lo applica dell'uno o del due. E io volevo dire una cosa invece sui prezzi. I prezzi ai quali vengono offerti gli immobili, quello che il proprietario vuole portare a casa sostanzialmente dalla vendita. Nel periodo in cui il mercato immobiliare andava bene fino al 2008, ma anche oltre, fino al 2010 e poi, i prezzi sono sempre stati molto alti. Cioè i proprietari si sono abituati a un trend di mercato positivo in cui le quotazioni sono salite molto e quindi non si rassegnano ancora oggi a scendere di prezzo. Scendono proprio quando vedono che la casa è sul mercato da un anno e mezzo, però noi non sappiamo se i 400.000 euro chiesti inizialmente erano il vero valore della casa o era un prezzo molto gonfiato per via di quello che ci si aspettava dopo anni di mercato immobiliare in crescita. Quindi, in generale i prezzi comunque sono previsti un po' in discesa. Sì, direi che stanno già scendendo, non stanno calando in maniera così a rotta di collo, diciamo, stanno scendendo e si prevede, diciamo, ci sono alcuni osservatori che prevedono per fine anno, quindi per tutto il 2012, un calo del 4%, chi arriva anche al 9%, quindi anche gli osservatori non sono concordi in questo momento nelle stime, diciamo, previsioni di fine anno. Abbiamo un altro ascoltatore, Sergio da Milano, buongiorno. Sergio? Non è con noi Sergio, è caduto. Va bene, pazienza, casomai ci richiami se è in ascolto. Sicuramente questo anche dei prezzi del mercato immobiliare è interessante. Continuiamo a dire che non si tratta di una bolla, perché non si può definire tale, però Andrea Polo, Paola diceva sì, un range tra il 5 e il 9 se non sbaglio, concordate anche voi, avete queste previsioni? Adesso è questo quello che si sta verificando, chiaramente in alcune città di più, in altre città di meno. Ad esempio dove? Nelle macro aree, diciamo, i prezzi scendono meno perché comunque il mercato è più fluido, come era il caso che dicevamo prima. È tipico il fatto che abbiamo sentito la provincia di Lucca, la provincia di Siena, la provincia di Grosseto, a parte che evidentemente vuol dire che Salvadanaio è molto ascoltato in Toscana, però a parte questo è effettivamente la provincia quella che è in grossa difficoltà. Però è importante, cioè se una casa passa da 400 a 295 mi pare o ancora di meno, vuol dire che uno dei due prezzi è sbagliato, per cui il consiglio forte è: prima di mettere la casa sul mercato, fatevene fare una valutazione realistica che un professionista sa fare, perché è anche slegato dalla parte emotiva. Vendere una casa in cui magari abbiamo passato l'infanzia, in cui è nato il nostro primo figlio, in cui siamo andati quando ci siamo sposati, non è facile, non è facile, per cui questo può dare un valore all'immobile che però è solo nostro e non è il valore del mercato, per cui facciamoci un attimo un esame di coscienza, facciamolo vedere a un professionista, questo è importante. Quindi 400.000 euro erano ricchi di ricordi magari, non lo so. O forse però farsi consigliare da un estraneo competente è assolutamente una cosa importante, certo, per poi non dover scendere magari così tanto o non caricarsi di aspettative. Anche perché quello che magari a noi come proprietario può sembrare un lavoro che ha necessità soltanto di un'imbiancatura, magari può voler dire invece rimettere a norma tutti gli impianti elettrici di una casa costruita negli anni 70, che non vuol dire esattamente 5.000 euro per riverniciare due stanze, insomma. Certo, mi sembra un consiglio di buon senso. Adesso sentiamo come sta andando sulle strade, poi torniamo a Salvadanaio a parlare di case. Salvadanaio. Stavamo chiacchierando qui con i nostri ospiti, il dibattito ferve, insomma vedo anche dagli ascoltatori che chiamano che c'è molto interesse. E Sandro da Verona, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci dica, qual è il suo caso? Sta vendendo, sta cercando di comprare? No, io volevo un consiglio, probabilmente sono un po' fuori tema, però non lo so. In questo periodo comprare in asta... potete dare qualche consiglio? Insomma, lei si vuole rivolgere a questa forma di acquisto che in effetti in questo periodo magari può essere interessante. Grazie. Enrico Lodi, le aste. Sì, beh, non è il tema di oggi in effetti, però ci sono molte persone che si rivolgono alle aste. Sicuramente esiste una rigidità diversa nell'acquisto in asta, che non è quella che osserviamo sulle compravendite normali. Il consiglio è certo, conviene dare un'occhiata alle aste perché evidentemente offrono delle occasioni e una elasticità al prezzo decisamente superiore rispetto a quelle che sono le compravendite standard. Già che ci sono, confermo i dati che sono stati forniti sia da Polo che da Dezza, la domanda di mutui è sostanzialmente rigida da un anno per quanto riguarda l'importo medio richiesto, perché siamo scesi da un importo medio richiesto, parlo sempre di domanda, di 136.000 euro l'anno scorso a 131.000 euro oggi, vuol dire che sostanzialmente i prezzi sono rigidi. Mm-hmm, giusto, ha fatto bene a precisarlo, perché in effetti questo è una cosa che torna, no? Questo, i prezzi restano rigidi e quindi non stanno calando poi così fortemente. Non so se siamo stati esaustivi sulla questione aste, però magari Salvadanaio dedicherà una puntata o parte di una puntata a questo, che in effetti è un tema laterale interessante, che probabilmente interessa sempre più le persone, e magari da capire un po' di più. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Allora, io sono un operatore del settore mutui, sono un mediatore del credito, mi occupo di questo settore ormai da anni. E le assicuro che per ciò che ci riguarda il volume d'affari è diminuito del 50% minimo. Il mondo dei mediatori del credito è stato falciato completamente, bisogna dire la verità, prima c'erano anche tanti improvvisati. Oggi probabilmente resistono quelli che hanno un minimo di credibilità nella professionalità. Mm-hmm. Però volevo dire due cose che secondo me riguardano precisamente la situazione. Allora, io vivo tutti i giorni con diversi istituti di credito, perché lavoro con tanti istituti di credito e non mi baso sulle statistiche o sui dati che comunica CRIF o sui dati che comunica Banca d'Italia. Mi baso su quello che vedo tutti i giorni nei confronti dei vari singoli istituti di credito. Allora, c'è una situazione di politiche del credito completamente diverse che hanno scoraggiato i clienti ad avvicinarsi alla richiesta di mutuo. Le posso fare un esempio con dei numeri? Sì. Con dei nomi? Sì, sì, può farli. Allora, le faccio l'esempio di un cliente Unicredit. Sono il 30% degli italiani, 35%. Un cliente che va in Unicredit si sente rispondere da un direttore onesto, deve andare da un'altra parte, perché noi tendenzialmente o le facciamo un mutuo che ha delle condizioni pietose, oppure fanno un mutuo hanno delle politiche del credito talmente complicate che poi gli fanno addirittura bocciare il mutuo. Ma a parte adesso questo discorso qui, la questione è che non è vero che però bisogna avere il 40% o il 50% dell'importo della casa per poter accedere a un mutuo. Non è assolutamente vero, perché ci sono ancora istituti di credito che chiaramente, di fronte a una situazione in cui il cliente ha un minimo di credibilità, e questo dipende sempre dalle politiche del credito delle banche, possono accedere tranquillamente a un mutuo dell'80%. Va bene, ci sono ancora istituti di credito, mi preciso con una cosa, che fanno percentuali di intervento superiori al 90%, per cui non è così. Ma Non lo so. Grazie Marco, sicuramente interessante, sicuramente però un osservatorio limitato, personale, e quindi questo dobbiamo dirlo. 90% di erogazione di credito, non lo so, ma Andrea Polo, di recente mi sembra quello, che sia quello diminuita che diceva questa... Marco ha senza dubbio delle cose vere e importanti, per cui la più importante in assoluto è quella di non limitarsi ad un'unica offerta, è vero. Di girare. Girare, certo. Girare autonomamente, girare sui portali che permettono il confronto, che permettono anche una consulenza preventiva, proprio perché quello che diceva Marco è una parte, i dati che dà il CRIF, che sono senza dubbio assolutamente affidabili, peraltro sono del tutto in linea con quelli che noi stessi avevamo comunicato qualche mese fa, sono chiaramente delle medie, e nelle medie, come ognuno ben sa, c'è chi ottiene, ci sono i due che ottengono il 90, ci sono i due che ottengono il 10 e ci sono i tanti altri che ottengono qualcosa nel mezzo, e poi si fa una media. Certo. Però l'importante è quello di non limitarsi a una sola offerta. È un meccanismo virtuoso che in Italia via via stiamo imparando, l'abbiamo imparato per le assicurazioni, l'abbiamo imparato per i viaggi aerei, l'abbiamo imparato fa per bene, gli alberghi, insomma, il mercato, fa bene guardarsi al mercato. E tra l'altro, legandomi al delle aste, rubo l'ultimo secondo, sì. Un altro argomento importante in questo momento, un'ottima occasione, è quella delle dismissioni, perché ci sono tanti istituti privati, istituti di credito che stanno dismettendo dei beni immobiliari proprio per quello che dicevamo prima, non hanno alcun interesse a tenerli sul groppone, per cui in questo caso, essendo finalmente aperti anche al privato tramite internet ad esempio, le offerte di dismissione, si possono ottenere delle case ottime, delle case certificate, perché non è trascurabile che oggi per vendere una casa deve essere anche certificata energeticamente in altri mille modi, e ovviamente insomma, se si prende una dismissione da una banca è solitamente più semplice ottenere il mutuo. Paola Dezza, avere il 90% di questi tempi è possibile? Per qualcuno magari sì, ma... Magari per qualcuno è possibile, mi sembra una cifra molto, molto alta, sinceramente. Io credo che le banche in questo momento siano, non lo nego, le principali colpevoli del fatto che il mercato sia ingessato, però penso che comunque un minimo di attenzione al cliente al quale va dato il mutuo ci debba essere, cioè non penso che... Certo, abbiamo visto in America cosa è successo, esatto, con il mutuo subprime. Quindi ben venga l'attenzione che la banca fa al cliente, la solvibilità del cliente e altro. Quando poi invece si trascende, si esagera, ecco, questo poi diventa negativo per il mercato, anche per il mercato dei professionisti, perché banche a volte non concedono finanziamenti anche per grosse operazioni, per operatori stranieri che in Italia vogliono investire, vogliono acquistare centri commerciali. Spesso è capitato che l'operazione non si sia chiusa perché la banca, che fino a un momento prima aveva detto sì, poi non neghi il finanziamento. Ecco, quindi anche questa delle grosse operazioni in effetti è un tema importante. Sono ferme proprio perché le banche non sono un soggetto assente in questo momento. Enrico Lodi, siamo in chiusura, una battuta anche a lei su questo. L'8% dei mutui erogati nel mese di settembre avevano un loan to value superiore all'80%, quindi quello che dice Marco è vero, ma riguarda l'8% del totale dei mutui erogati. La media è il pollo di Trilussa, fa il 60%. Un altro flash: il crollo delle erogazioni dei mutui si concentra in particolare su quelli che sono gli altri mutui. Ecco, infatti dicevamo ristrutturazione e quant'altro. Appunto. Non le voglio togliere la parola, ma mi sfumano, quindi devo salutarla, salutare i nostri ospiti, Marco Lombardo in redazione, Gianmarco Ferronado in regia. A domani.